tesseria GHJKL. Perfetto. GHJKL. Mettiamo. Sì. Perfetto. Allora qui ci siamo. Se per caso mettiamo, basta, onda, che stavolta lasciamo stare, andiamo un attimo. Ecco, se su, per caso va Skype, che stavolta lasciamo stare, andiamo un attimo su Skype e proviamo a comunicare da lì, così non spendiamo più soldi. Pronto? Ciao. D'accordo. Oh, adesso ti sento. Pronto? Oh, adesso ci sei? Ti sento. Babbo? Ci sono. Sì che ci sono, anch'io, mi senti? Sì. Babbo? Ecco. Sì, bene, adesso con sì. Un certo ritardo personalmente. Sì. Anch'io abbastanza. Arturo? Arturo? Sì? Anche... Ecco, Babbo. C'è? Già, non... C'è? C'è un grande ritardo. Tra quando parli e quando la voce arriva. Come facciamo? Anche da te la stessa cosa. Francamente non so se è un problema legato al server in sé. Certo, per questo devo bisogna riuscire a capire. Forse facciamo meglio credo, a parlarci con la chat. Tu adesso, ecco, fai una cosa. Sì, giusto. Allora, prova ad alzare il cursore del metronomo.